dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Bene, siamo tornati come ogni mercoledì qui in diretta agli studi di Radio Panorama con Ciao. Antonio che mi fa compagnia. Ci siamo tutti. L'altra volta ero da solo io, due settimane fa ero da solo lui, ora ci siamo tutti. Ci siamo tutti. No, ora dovrebbe mancare Brumba, però se manca se Brumba la baracca non va avanti. Non va avanti. Bene, allora ritrovati tutti quanti oggi qui davanti alle vostre casse, dentro le vostre macchie, davanti ai vostri computer, perché oggi abbiamo una grandissima puntata. Sì, sì, oggi abbiamo diversi ospiti, tra cui Branham. Brahaman, almeno spero che si pronunci Brahaman. Sì, perché ogni volta che cercavo notizie su su YouTube, su Google, ovunque, trovavo mille altri nomi. Forse cercavi Branham, forse Brahman, e quindi mi sono confuso, non sapevo più qual era. Ma il vero ospite di questa puntata è Brumba. È Brumba, sì, ovviamente, certo. Che manda avanti appunto. Ma è Paolo Belli. Paolo Belli. Sì, ve lo ricordate tutti, quelli ladri di biciclette con Baccini. Quello di la faccio finita. Esatto, e l'avremo con noi fra poco i microfoni qui di Radio Panorama. A che ora? Fra pochi minuti, quindi rimanete con noi. Benissimo. Ma soprattutto ci occuperemo del May Super Sound di Faenza, il grandissimo festival di musica indipendente per il quale daremo 4 biglietti in regalo. Ovviamente a chi... se non siete di Faenza il treno, l'aereo ve lo pagate voi. Però noi vi diamo il biglietto gratuito. No, gli diamo anche il numero di PostoPay di Massaro. Ovviamente. E soprattutto chi ci ascolta insomma in streaming e si trova vicino Faenza avrà la possibilità sicuramente di partecipare in maniera più attiva rispetto agli altri. Ma daremo questi 4 biglietti per lo spettacolo di Checco Zalone e per gli altri cantanti che si esibiranno al May Super Sound. Diamo i contatti? Diamo subito i contatti e poi partiamo con va bene, allora ci trovate su facebook.com/l'onda in onda con la L, oppure su twitter.com/onda in onda senza la L. Il numero per gli sms è 380 7690 204, e poi ci potete ascoltare ovviamente in streaming su www.radiopanorama.eu in streaming. E adesso, come qualsiasi programma che si rispetti, è il momento della sigla. A cavallo di quest'onda ballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda ballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, cattiamo, se va, diamai! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Benissimo, siamo qui in diretta. Io sono costretto a lavorare con uno che ha dei seri problemi di sviluppo neuropsicomotorio. Si vede da come si muove, come agisce. Cioè, doveva solo farmi segno, parla tu, capisci la sigla. E ha fatto una cosa che io rappresenterei così. Perché questo è stato più o meno quello che ha fatto. Io l'ho detto. Ci vuole la webcam. Sì, sì, ma infatti noi la aspettiamo. C'è stato il nostro amico Ciccio Serio. Ah, prossima settimana mi fanno segno che avremo la webcam. Ma come, non glielo dovevamo che dire? Che Ciccio Serio. Ah, quindi questa è una delle novità di cui dovevi parlarci. Speriamo non sia l'unica. Intanto dietro ci parla appunto Giuseppe, l'uomo delle capre, che ha detto sì. Va bene, abbiamo tanta ciccia e tanta roba. Abbiamo tempo di parlare di notizie? Oppure abbiamo già Paolo Belli che scalpita? No, abbiamo tempo. Ah, abbiamo tempo. Allora, non so se avete visto quello che sta accadendo a Madrid. Diciamo che proprio hanno preso esempio dagli italiani. Anche noi quando vogliamo protestare contro qualcosa che non ci va tra le decisioni del governo, noi andiamo a occupare le piazze, le strade limitrofe di casa nostra. Mentre in Spagna occupano il Parlamento, l'hanno circondato migliaia di persone, noi guardiamo l'onore e il rispetto. Ovviamente noi occupiamo il divano di noi occupiamo il divano e ci grattiamo la panza. Però facciamo uscia... un sit-in sul divano. Esatto, sì. Un sit-in. Però noi andiamo, diciamo, facciamo il sit-out, anzi lo stand-up, solo se c'è la nazionale da festeggiare. Yes. E di casa calcio, perché se vince qualcos'altro non ce ne può fregare di meno. Nazionale di scacchi, sì. Cioè, non se la fila nessuno. Esatto. Bene, non so se avete visto che c'è una foto che ha fatto il giro del mondo del cameriere eroe di questa situazione. C'è stato un cameriere che praticamente, quando ha visto la polizia che è molto incazzata, e devo dire che ha risposto in maniera esagerata alle legittime proteste degli indignados, appena l'ha vista avvicinare verso il bar in cui lui lavora in centro, il cameriere subito si è parato avanti e gli ha detto: dove cazzo state andando? Credo in spagnolo, ma gli ha detto quello. E c'è la foto di lui che, insomma, temerario, si scaglia contro la polizia senza avere nulla in mano, che sta facendo appunto il giro del mondo. Un bel esempio per noi che invece stiamo... Come quella del carro armato di Piazza Tiananmen. Esatto, come il ragazzo con la valigia 24 ore a Piazza Tiananmen nell'88, se non erro. Adesso non ricordo. Ecco, i suoni di Andrea che si moltiplicano. Allora Andrea, tu invece cosa hai da dirmi? Ma io da dirti che sono molto contento in realtà di proprio di intervistare Paolo Belli, perché insomma sono cresciuto con le sue canzoni da piccino e insomma sono veramente contento di sentirlo. Ah, non sapevo proprio che Paolo Belli facesse i tappetini dei film porno che passano la sera in TV, per quello sei cresciuto. No. Proprio con le sue canzoni, soprattutto ne sono legato molto a una che lui fa sempre al non concertone del prima. Primo maggio, no, non diciamo la prima. Però la passeremo. Assolutamente sì. E quindi insomma sono veramente veramente esaltato dell'intervista con Paolo Belli. Sì, quella canzone che mi stai indicando... di cui vorrei parlare, tra l'altro. Perché c'è un evento a Palermo. Dai, di l'evento. Allora, il 6 ottobre in piazza Massimo, piazza Verdi a Palermo. Non ricordo l'ora perché non ho davanti qui l'evento. Ma Facebook. Brum, alle 15.30. Alle 15.30, lui che è un fan come noi, ci sarà, forse già alcuni di voi staranno sorridendo, il primo mega flash mob palermitano dedicato a Gangnam Style. Questa canzone che addirittura ha raggiunto 300 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il video più visualizzato. Da quando è nato YouTube. Esatto, è il video più visualizzato con questo danza un po' stile rodeo kitsch, con questo video che si sposta senza alcun motivo apparente da una località all'altra, cioè si passa dal maneggio a delle ragazze che fanno palestra, e lui che urla contro le sedie delle ragazze, ricordandomi il mio collega Andrea Massaro quando la sua tempesta ormonale lo coglie, cioè sempre ovviamente tutta la giornata. Quindi tutti quanti coloro i quali stanno ascoltando questa trasmissione e amano Gangnam Style come noi, al ritmo di Oppa Gangnam Style, li aspettiamo alle 15.30 del 6 ottobre davanti a Piazza Teatro Massimo. Mi fanno segno che è il momento ovviamente di passare una canzone, quello è il segno del nostro direttore, e allora ci ascoltiamo. Non vedo nulla. Ah beh, un classicone, i Beatles con Help. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured, now I find I've changed my mind and opened up the doors. Abbiamo appena ascoltato uno dei pezzi storici del rock and roll made in England. Abbiamo ascoltato di quel quartetto di Liverpool, Help, quando c'è bisogno di aiuto. Uno dei pezzi più belli dei quattro scarafaggi di Liverpool. Intanto Andrea sta impazzendo, infatti credo che Help sia dedicata a lui, che sta chiedendo aiuto in tutti i modi. Sta sclerando. Sì, è il nostro amico Giuseppe quello che mi indica quando devono passare i pezzi con quel... È vero. Ecco, il nostro amico Giuseppe che si è appena espresso con questa voce suadente. Scusate, vado che c'ho le pecore. Va bene, secco, torna al suo lavoro. E insomma, ci ha sottolineato il fatto che Andrea è un isterico. Pensiamo un po' se fosse donna e col ciclo. Non voglio neanche... Ma io ho il ciclo. No, uno schizofrenico. Uno schizofrenico con due Z. Scusate, c'ho pure l'aria condizionata. La montiamo, mi fate piacere. Sì, che... sì. Guardi, per favore, ma guardi, io spero che lei la monti lì davvero al più presto l'aria condizionata qua. Perché ci sono giorni in cui si crepa. Cioè, di là il brum sta bene, ma d'accordo. Cioè, non è un problema, l'importante è che sto bene io. Sì, infatti, allora mettiti la sciarpa però, almeno per bilanciare, stronzo. Senti, vai, leggi una notizia. Scusate. Sì, oggi Giuseppe interviene. Ma è Brummo o lo so yogi questo qua? Ma guardi, sa che ce l'hanno chiesto in tanti. Diciamo. Ma voi forse non sapete una cosa, che lo so yogi era doppiato da un personaggio di Termini Imerese. Credo dal figlio di... Lo scommetto io. Credo dal figlio del musicista Mulè, doppiava proprio yogi. Benissimo, leggiamo una notizia. Allora, Nicole Minetti sfila. E non portafogli, questa è una cosa, già una notizia. Sfila su una passerella e l'hanno pagato, oggi si è saputo quanto, 110.000 euro. A chiappa, diciamo, perché, credo quindi 220.000, sì. Comunque devo dire, la ragazza meritava, fisicamente ineccepibile. Sì, e ricordiamo che è la nostra ex ministra delle varie opportunità. Quindi la domanda è, quanto dareste a Massaro se sfilasse? Se sfilasse. Ma guarda, io non ho prezzo. Perché anche se lui non è stato anche se lui non è stato ministro, dico, voglio dire, Andrea ha un peso specifico maggiore. Non voglio immaginare il peso specifico di Peppe, che insomma prende mezza stanza se lo guardiamo da qui. Guardalo, Andrea. Sì, le pecore in tasca. Ah, ecco, quindi le mezzo chilo. Come Totò in Miseria Nobiltà con gli spaghetti, lei ha le pecore. Credo che ci sia il momento di ascoltare un altro pezzo e di mandare la pubblicità, perché poi ci risentiamo. Quindi ci ascoltiamo adesso T-Pain. Ma lei sta dicendo che è ancora presto. Non è vero. Ma se lui mi ha fatto segno di fare. Ma non sa niente, ma non sa niente. Ma ascoltiamoci questo pezzo e torniamo subito dopo. Ascoltiamo T-Pain con 5 o'clock. It's 5 o'clock in the morning, and I want ya, and you want me, don't ya? I can see it, 'cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, 'cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love. You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, oh, and then ask me kindly, oh, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song. It's 5 o'clock in the morning. Yeah. Conversation got boring. Talk to me, girl. Good night. but the t-shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. Too many thirsty girls up in this club for me to leave here with one of them, that's why I call her. And you'll be right at home waiting for me, iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closed at 6, left around 4:30-ish, so by the time I'm at your crib, it's 5 o'clock in the morning and you yawning, but I've been drinking all night and I feel like performing. E siamo tornati in onda mentre Bruma non puoi darmi il volume mentre io sto imitando il bisbetico domato che sarebbe Andrea. Ebbene, siamo sempre qui con l'onda in onda e ricordiamo un attimo i contatti: facebook.com/l'onda in onda o twitter.com/onda in onda, perché lì non abbiamo messo la L per risparmiare. Abbiamo risparmiato un pochettino. Assolutamente, perché su Twitter si paga a lettere, non è vero, ma è bello dirlo. E dopodiché radiopanorama.eu o punto eu. O punto info per ascoltarci. Senti, ma sbaglio, mentre ascoltavamo il pezzo tu hai fatto qualche telefonata, Bruno? Sì, ho fatto qualche telefonata. E c'è qualcuno che ci aspetta in linea? C'è qualcuno che vi aspetta. Attenzione, in linea. Allora, ve l'avevamo preannunciato, siamo a dir poco onorati. Andrea già qui sorride, sì, e piange, sì, in contemporanea, perché lui è cresciuto, come c'è detto prima, con le sue canzoni. E stiamo per ospitare, abbiamo l'onore di avere, anzi già qui in diretta, i microfoni di Radio Panorama, Paolo Belli. Ciao Paolo. Ciao. Tutti, ciao ragazzi. Ciao, come stai? Bene, voi? Bene, benissimo, ora che ti ascoltiamo ancora meglio. È un grande onore per noi. Addirittura. Sì, sì, sì, no. In sottofondo il nostro pubblico può ascoltare già Dottor Jazz e Mr. Funk. Sì, mi fa piacere, ma è strano perché voi siete dei ragazzini, conoscete Ma guarda, Paolo, io sono cresciuto con Dottor Jazz e Mr. Funk, mio fratello mi ha drogato della tua musica, quindi diciamo io mi sento parte di quella musica di quel tempo. Quindi la colpa di tuo fratello non è mia, meno male. Sì, la colpa di tuo fratello. Infatti sì, noi mettiamo sempre i sottotitoli per tutti gli altri problemi, rivolgersi a Fabrizio, che è suo fratello, lui risponde per tutto il resto. Sì, noi siamo allora piccoli. Ringrazialo da parte mia. Noi abbiamo appena 26 anni, lui 25 io, però amiamo la musica come si deve, quindi amiamo anche e soprattutto questo gran pezzo, come tanta altra parte della tua discografia. Potreste essere miei figli, però lo sappiamo, mi fa piacere. Ma non sappiamo se Andrea forse è tuo figlio, secondo me dovremmo fare un controllo, perché lui parla spesso di te anche nel sonno. Dovremmo controllare. Si dicono che metti caso poi che dopo diventa tutta roba vera. Sì, domani i giornali escono: Paolo Belli ha un figlio in Sicilia, e lui subito tutte le fotomontaggi. Allora Paolo, che cosa stai facendo in questo periodo? Raccontaci. Guarda, proprio in questo momento sono in studio, sto scrivendo delle cose e in più sto praticamente finendo la tournée. Ho ancora da fare 5 date di questa tournée che ci ha portato anche all'estero. Sono felicissimo perché in un momento di crisi come questo noi quest'anno abbiamo fatto il record di concerti, quindi assieme alla Big Band è un grande piacere. Siamo appena tornati dal Canada, adesso abbiamo ancora appunto queste date da fare, però tra una data e l'altra sono già in studio a scrivere dei pezzi nuovi, perché poi da dicembre in poi si riparte con un'altra stagione molto intensa, e quindi sto mettendo fieno in cascina, più che altro perché sono molto ispirato in questo periodo. Probabilmente sai, andare in giro in tournée poi ti dà delle emozioni talmente così forti che certo, ti arricchisce di emozioni da poi scrivere canzoni, che non so se poi sono belle o brutte, però comunque sono emozioni che uno come me gli piace trasmettere e scrivere sul pentagramma. Vabbè, noi l'ascolteremo sicuramente il tuo album, perché io sono convinto che ci piacerà. E magari ci risentiremo e magari per commentarlo dopo. Certo. Paolo, invece parliamo proprio della musica dal vivo. Si sta svolgendo il May Super Sound a Faenza. Sì, io e questa è la terza volta che mi chiamano e devo dirti che sono felicissimo, perché al di là del fatto che fai concerti dal vivo, quindi insomma, per uno come me, no, che ha sempre amato stare sul palco, e poi tra l'altro sai, ormai da 15 anni a questa parte faccio concerti con una big band, sono uno dei pochissimi al mondo ad avere la big band, quindi sai, sì, comunque è un grande piacere, ma sono anche molto onorato, perché il May sono 3 anni che mi chiama, e quindi vuol dire stare per 3 giorni in mezzo ai giovani, e più ci sto e più imparo, perché veramente quello che mi diceva il mio professore di conservatorio: nella musica non si è mai finito di imparare, e il May è una fucina di grandi talenti emergenti che chiaramente sperano, e io glielo auguro vivamente, di poter diventare dei professionisti della musica, sta di fatto che comunque hanno tanto talento, io vengo contaminato dalle loro cose, quindi mi è come se andassi a scuola, no? E vado a scuola da dei ragazzi molto giovani che però hanno delle idee straordinarie, e questo è il MEI è proprio dare, si dice sempre, sai, dare spazio ai giovani, ma esatto. È una cosa che lo si dice sempre e poi non lo si fa mai. No, ma guarda, invece questa è un'isola felice, è un'isola felice, quindi si fa proprio quello. Io posso dirti che ho sempre apprezzato il tuo lavoro che hai fatto con i giovani, soprattutto con il progetto Primo Maggio tutto l'anno, che tra l'altro l'anno scorso non si è tenuto, spero che quest'anno magari riprenda il... Sì, mi sono anche molto dispiaciuto che non sia stato fatto. 2 anni fa, se ti ricordi, portai i Cubeta. Sì, e io sono sempre in Piazza San Giovanni in prima fila, quindi insomma, ah, sì? ci conosciamo di vista. Lui uno staccanovista della prima fila. Io l'ho seguito, guarda, solo un anno, ma la cosa bellissima è che quando riesco a portare dei giovani in Piazza San Giovanni, e oppure anche quando ho fatto il disco l'anno scorso, sai, Giovani e Belli, la cosa bella è che poi, non so, trovi un Lello Annalfino o dei Cubeta, che quando gli dico quest'anno vi porto a Piazza San Giovanni al concerto del Primo Maggio, piangono. La cosa è fantastica, perché dici, guarda che bello, no? Basta poco poi alle persone regalargli delle emozioni. E poi chiaramente mi hanno fatto farmi la figura, perché poi lo sapevo che bastava portare delle nuove emozioni, di nuove esperienze, di nuovi talenti, e sicuramente avrebbero fatto bella figura loro, ma l'avrebbero fatta fare anche a me. Mi auguro di 3 anni fa portai Bud Spencer Blues Explosion, sì. Insomma, ci sono persone che adesso sono diventate dei professionisti della, esatto, musica, no? Che tra l'altro, quindi io... è sempre meglio che andare a lavorare, no? Esatto, sicuramente. Ma poi posso vantarmene, guarda, che i Bud Spencer Blues Explosion nei Cubeta io li ascoltavo ancora prima che uscissero al Primo Maggio, quindi quando li ho visti lì ho detto, cazzo, ma allora Belli è veramente, veramente bravo, cioè, c'ha occhio. No, non è che sono uno che quando 30 anni fa stavo sotto ai palchi, no? E sognavo di andare lì sopra, ho sempre pensato, se un domani dovesse riuscire ad andare sopra quel palco, non mi devo dimenticare del fatto che poi ci saranno altre persone sotto un palco che sognano questo. Quindi cerco di stare attento, di ascoltare, proprio di andare in giro, mi piace ad esempio con la fortuna di internet, no? Dove arrivano un sacco di MP3, oppure puoi andare su MySpace, oppure comunque hai la possibilità di ascoltare tante realtà nuove, mi piace farlo attentamente, quindi ascolto, ad esempio 2 anni fa Pablo Rabito, che è un ragazzo di Catania, mi ha mandato una canzone bellissima, io l'ho incisa e adesso mi piace pensare che qualcosa di sia e gli arrivi e che gli possa permettere di diventare anche lui un professionista della musica, no? Sì, quindi esatto. Ascoltare, voglio dire, non è che io sono un piccolo baudo della musica, però bisogna ascoltare, invece tante volte molti addetti ai lavori fanno finta di niente e quindi i talenti rimangono nel cassetto, insomma. Insomma, noi auguriamo tanta super fortuna. Complimenti, insomma, ha fatto un discorso. Auguriamo tanta fortuna sia ai talenti che, insomma, vengono selezionati da Belli, sia proprio a Paolo Belli. Paolo, no, noi ti lasciamo perché prima di lasciarti dobbiamo chiedere una cosa. Sì, è vero. Senti, guarda, Paolo, io ti parlo col cuore in mano e con il pentagramma che mi esplode dentro. Tu, prima di salutare Radio Panorama e L'Onda in Onda, devi fare almeno un minimo accenno di una canzone, qualcosa, se vuoi puoi anche personalizzare infilando la parola Radio Panorama. Fai tu, devi però salutarci musicalmente. Ma l'hanno fatto il Piotta, l'hanno fatto in tanti, addirittura non abbiamo la sigla che è la canzone del Piotta, l'esercito del surf, e lui ce l'ha, diciamo, come dire, incisa, personalizzata. Adesso tocca sulle a te. Note di Dr. Jazz e Mr. Funk, fai tu, puoi anche non dirlo Radio Panorama, ma devi lasciarci 3 secondi di cantato. Dai, allora, così a bruciapelo va. Allora. Bruciapelo, vai. Sì. Vai, pronti? Vai. A me mi piace Radio Panorama, a me mi piace, a me piace lo swing. Grande, Belli. Grandissimo, grazie, Paolo. Grazie. Vabbè, vi accontentate di poco. Ma sì, ma guarda, ma siamo giovani, sono ragazzi, come dicevo, siamo ragazzi. Sai che funziona? A me mi piace

medium excellent. It's with the tattoo of a big sipping glow. Hey, you're living at the W. You're looking like a Jezebel on his hell, summer in a pink bathing suit. Wanna be a troublemaker. Wanna be a troublemaker. Wanna be a troublemaker. Wanna be a troublemaker. Too late. Hey, oh, you're giving me a heart attack. You're giving me a cardiac arrest while I'm sitting at the traffic lights. Hey, hey, hey, hey. Stai ascoltando L'Onda in Onda. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. E mentre in sottofondo Andrea mi delizia con una versione sicula che non posso attendere a ripetere di Something Stupid, questo pezzo che credo era nella versione di Robbie Williams e Nicole Kidman, anche se l'originale è di... È di... Va, Erro, dici tu. Ovviamente di... C'è il tempo che sta scadendo? Esatto, non hai indovinato. Non ho indovinato. Credo Frank Sinatra. Ma non lo so. Non ne sono sicuro, ma credo Frank. Io già devo fare una rettifica. Prima, quando si parlava della sfilata, ho detto che Nicole Minetti era una ministra. In realtà no, mi sono confuso con la Carfagna. Ma diciamo... Non si offenderanno, sempre di gnocca si stava parlando. Ovviamente, sì, sì, perché c'erano... Quindi, insomma... Esatto, perdonate questa va bene, diciamo, sì, appena Andrea errore. Troverà le parole. Però noi vorrei siamo... dire, sì, vorrei sì. dire no, che prima della pubblicità abbiamo mandato un pezzo bellissimo dei Green Day. Sì, perché... ma è del nuovo album, è del nuovo album. Unos. Unos? Uno? No, è... sì, il nuovo album si chiama Uno, ma in realtà sono... Io non so la S, più le DOS. Sì, esatto. Allora, no, è uscito appunto il nuovo album The Green Day, è uscito ieri. Sì. E si chiama Uno, ma fa parte di una trilogia di album. Provo a immaginare come si chiama il secondo. Indovina. DOS. E il terzo? Tres. Bravissimo. Incredibile. Oddio, poteva anche essere Uno, Due, Tre, proprio un omaggio all'Italia, invece no, in spagnolo. In spagnolo. Sì, in tra l'altro spagnolo. Un album veramente bellissimo. E questa ah, l'hai ascoltato? L'ho ascoltato, sì, l'ho ascoltato quasi tutto, abbiamo trasmesso questo questo primo pezzo. Anche perché vedo la copertina e sembri tu dopo che hai bevuto uno spacca stomaco, esatto, qualche anno, esatto, fa. Proprio, avevi anche i segni a croce, a X viola sugli occhi. Sì. No, l'artwork della copertina dell'album di Green Day è molto bello e noi vi consigliamo di comprarlo su iTunes. Quando dici artwork, ti piace impazzire, artwork da morire. Bellissimo. Non l'avevo mai sentito. Allora, visto che noi abbiamo anticipato che oggi siamo, diciamo, gemellati col May Super Sound. May che sta per. Spero che qualcuno ci ascolti, soprattutto nelle zone di Faenza. Sì, se non ci ascoltate, insomma, May non sta lo so. Per il Festival della Musica Emergente Italiana. Musica Emergente Italiana. E si tiene già a Faenza, ma il 28, 29 e 30 settembre c'è proprio il festival, entra nel vivo, quindi sì, tra pochi giorni. Esattamente noi... da dopodomani, da venerdì. Esatto. Venerdì, sabato e domenica sarà un weekend all'insegna di tanti concerti, incontri, come si deve. Andrea, non permetterti di scrivere qualcosa. No, non scrivo niente nel tuo Facebook. Ok, ho avuto paura perché le ultime volte io cercavo banane o cose del genere. Sì, allora noi mettiamo in palio per la prima volta dei biglietti, sì, in questo caso proprio per il più grande festival della musica indipendente italiana. E mettiamo in palio un biglietto scontato a 5 euro, in realtà il prezzo del biglietto pieno è 10 euro, ma noi ve lo regaliamo a 5 euro per il concerto. Non puoi dire ve lo regaliamo, cioè ve lo diamo scontato, se ci sarà uno sconto. Sì. Sì. A 5 euro per il concerto dei No Brain di venerdì 28, poi due biglietti gratuiti per la serata del 29 settembre che vedrà Checco Zalone, Cristina Donà, Zibba, Marco Guazzone, Maria Antonietta, lo Stato Sociale, Il Genio e tanti altri. Vi ricordo, sono due biglietti gratuiti per la serata del 29 settembre a Faenza. Esatto. E poi un biglietto gratuito per il reading di Pierpaolo Capovilla, che è il cantante del Teatro degli Orrori, che abbiamo avuto il piacere di avere tra l'altro nei nostri microfoni in intervista. Il 30 settembre si terrà questo evento. Sai, noi sempre siamo... a Faenza. Un attimo, sì, prego. Per vincere, insomma, noi faremo delle domande durante il corso di questa puntata. Sì. Potrete rispondere magari su Facebook, ora daremo le modalità, è la prima domanda, o su Facebook, oppure con un sms al 380 76 90 204, 380 76 90 204, oppure insomma la nostra oppure pagina Facebook, lo gridate ad alta voce, noi vi sentiamo. Sì, esatto. Se non siete proprio a Faenza, noi dovremmo avvertire la vostra voce. Io stavo pensando che la prima domanda che mi viene in mente, viste le date tra l'altro del Super Sound 28, 29 e 30 settembre, è: a quale canzone vi fa pensare una di queste date e qual è la prima parola di questa canzone? Quindi sono due domande. Due domande. Non è una. Vabbè, ne facciamo una. Ne facciamo una. Quale di queste tre date vi fa pensare a una canzone molto famosa italiana? Ma quale di queste tre date, quale? Le tre date appunto del May Festival, 28, 29 e 30 settembre. C'è una di queste tre date che ha a che fare con una canzone italiana famosissima, anzi è proprio il titolo. È una domanda facilissima, quindi vediamo chi ci risponderà per primo appunto sulla pagina facebook.com/londainonda, twitter.com/londainonda o via sms, ricordiamolo, 380 76 90 204. Vediamo un po', adesso abbiamo il tempo, mentre loro proveranno a dare la risposta, di ascoltare un nuovo pezzo. Ci spariamo Shaggy con Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hachoom sneeze. Well are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. O. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom Boom Bastic. Very fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Very fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving, girl your loving well good. I want your loving, y'all be it like you should. I give you your loving, girl your loving well good. I want your loving. Y'all, you remember the wood you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. Yeah, yeah, yeah. Ooh, ah. Hai finito con questa porcata. Sticchi che pare bunda, sticcandei. Hey. Basta. Vabbè, Antonio, siamo tornati in onda dopo aver ascoltato Shaggy Bombastic, che mi ricorda un... No, perché tu non c'eri la scorsa puntata, c'era, c'era, c'era Panza Rap. C'era Panza Rap, sì, sì, ah, sì, sì, sì. Ma è venuta anche Vara Menier a cercarti. Sì, sì, sì, sì, con la, col campanaccio. Ricordiamo a tutti quelli invece che vogliono riascoltarsi la puntata e magari ci hanno perso durante questo orario, che saremo in onda, insomma, dalla mezzanotte alle 2. Alle 2 di notte, proprio oggi, mercoledì, questo mercoledì. Allora, scusate, qui abbiamo dei problemi in acquario con il nostro account di Facebook, che è successo un danno, insomma è un noto bug che si è verificato su Facebook. Io sto venendo a scoprire in diretta. Sì, in diretta abbiamo scoperto che le conversazioni di Antonio sono tutte pubbliche su Facebook. Ma io sapevo che era successo in Francia, ma non sapevo che è successo da noi, compare. A quanto pare. Io credo di aver scritto le cose più immonde in quegli anni, tra il 2008 e il 2010. Vabbè, insomma, è un po' un danno. Ora le andremo. Ma come si trova? Le andremo non lo so, vedremo. Comunque, allora, ne abbiamo parlato prima. Abbiamo messo in palio i biglietti per il May Super Sound. E abbiamo con noi al telefono l'organizzatore. L'organizzatore che si chiama G. San Giorgi. Poi si può pensare quel che si vuole, dirà lui il suo nome. Ciao. Ciao. Sì, non credo che siamo stati i primi a pensare a che proprio G. San Giorgi, cioè chiunque potrebbe pensare ad altro. Chiunque potrebbe pensare a Giorgio San Giorgi, il noto entomologo. Esatto, è proprio quello che volevamo dire noi. Tra l'altro noi siamo tutti entomologi qui in radio. Io ho appena laureato, gli altri stanno finendo il corso di studi. Ciao carissimo, allora. Carissimi voi, grazie per lo spazio che ci dedicate. Ma complimenti, guarda, un saluto agli ascoltatori. È un piacere assolutamente. Noi non so se ci hai seguito fin da prima, ma abbiamo avuto il piacere di ospitare telefonicamente poco prima Paolo Belli, che ci ha dato la sua testimonianza riguardo al MEI e insomma al piacere che ha di imparare, proprio di imparare dai giovani letteralmente. Ha detto, si dice tanto dare spazio ai giovani, il MEI è una di quelle occasioni in cui veramente io vado a imparare dai giovani che hanno largo spazio. Quindi è un piacere oggi proprio dedicarci a questo festival della musica indipendente. Però ora diamo la parola a te, parlaci un po' tu di questo MEI di quest'anno. Ma diciamo che abbiamo organizzato una 72 ore da venerdì 28 settembre a domenica 30 settembre a Faenza, nel cuore della Romagna, di nuova musica emergente italiana, 200 band che suoneranno dal vivo provenienti dai festival di tutta Italia, coordinati nella rete dei festival che portano il loro vincitore, e quindi una vetrina del meglio. Ovviamente insieme a questi, che sono tanti sconosciuti, di cui una buona parte diventerà nota e farà la nuova musica italiana del futuro, ci sono tanti importanti testimonial che li affiancano per fare in modo che ci sia un grande pubblico e che quindi i grandi artisti come Paolo Belli, appunto, con la loro generosità e disponibilità, permettano ai giovani artisti di farsi conoscere a un pubblico più ampio. Bellissimo, bellissimo. Senti, ma è già la manifestazione è iniziata, anche se deve entrare nel suo clou domani, giusto? Correggimi se sbaglio. Diciamo che partiamo venerdì sera 28 con un'anteprima dei No Braino, che è questa indie rock band di punta d'eccellenza, esplosa al concerto del 1° maggio, tra l'altro della nostra zona, vinse Faenza Rock, dove si svolge il May, proprio 10 anni fa, dove partirono quindi le loro prime mosse, e farà un concerto di brani originali inediti ma eseguiti dal vivo, con prima una serie di band emergenti che si sfidano in questo Super Stage Contest che abbiamo lanciato quest'estate con oltre 300 band. Poi si prosegue il sabato 29 settembre con una grandissima notte bianca, eventi in circa 40 punti della città, fino a notte inoltrata, per chiudere poi domenica 30 settembre con alcune chicche, una di queste è l'Onda Rosa Indipendente al Museo delle Ceramiche. Si daranno appuntamento 30 fra cantautrici e cantanti rock di gruppi al femminile, che per noi rappresenta la nuova scena italiana della musica emergente, con Andrea Mirò che farà da testimonial e le accompagnerà. Tanto Andrea Mirò è una delle giurate di Area Sanremo insieme a Omar Pedrini. Omar Pedrini per due giorni sarà a Faenza a fare il campus match, cioè ascolterà le giovani band e darà loro consigli e suggerimenti. Andrea Mirò, che noi abbiamo avuto la fortuna tra l'altro di intervistare qualche puntata fa, anche quella è stata una gran bella esperienza. Ascolta, noi stiamo mettendo mettendo in palio dei biglietti proprio per il May Super Sound. Abbiamo già fatto una domanda, già i nostri ascoltatori hanno risposto, dobbiamo vedere adesso chi è il primo, chi è stato, diciamo, il dito più veloce. Diamo l'opportunità a te, caro San Giorgi, di proporre un'altra domanda ai nostri ascoltatori e vediamo chi sarà il più veloce a rispondere alla seconda domanda e a aggiudicarsi il biglietto per la seconda giornata del May Super Sound. Una qualsiasi domanda. Qualsiasi, ma può essere anche... Qual sì. è il primo disco in Italia che è stato prodotto da un'etichetta indipendente, l'artista o il nome dell'etichetta? Benissimo, la domanda magari è stata ce la dici anche a noi la risposta, così possiamo sapere chi ha vinto. Esatto, 50 però... anni fa, questo per aiutarmi e darvi un'idea del periodo. Vabbè, la dici poi in regia dopo, chiudiamo così. Appena chiudiamo la potrei dire al nostro regista, così noi avremo la risposta. Io francamente non la so. Neanch'io, purtroppo devo dire che io non avrei vinto un bel niente. Va bene, io ti sentiamo comunque molto contento e gasato, si vede che l'aria che si respira in questa vigilia di May è molto molto carica, quindi siamo veramente contenti di sentirti così. Beh, certo, ci stiamo divertendo, ovviamente con molta tensione, perché tutte le fasi organizzative sono difficili da coordinare, soprattutto quando oltre al live ci sono tanti convegni, incontri, presentazioni, cioè un mare magnum di eventi. Invito tutti ad andare a vedere il sito myweb.it, però devo dire che lo si fa con molta passione, quindi sicuramente c'è anche molto divertimento, si scoprono, si incontrano tante belle cose interessanti, quindi diciamo che da quel punto di vista lì c'è una forte carica. Benissimo, va bene, noi ti ringraziamo per questo intervento, invitiamo ancora tutti i nostri ascoltatori, appunto, che hanno sentito la seconda domanda a dare la risposta. Beh, vediamo un po' come andrà. Fatemi sapere. Ovviamente faremo sapere. Sarà il nostro ospite a Faenza il 29 settembre al teatro. Esatto. Rispondo a questa domanda. Va bene, allora adesso... Dillo al nostro regista, mi raccomando, dopo che ci avrai salutato, così ce la segniamo e chi risponde, possiamo sapere se ha indovinato o meno. Va bene, allora grazie Giordano. Grazie, aspettiamo. Grazie a Giordano San Giorgi, ciao, alla prossima. Ciao. Va bene, allora adesso noi ci ascoltiamo invece un pezzo. Ci ascoltiamo Pink con Blow Me. White knuckles and sweaty palms from hanging on to tight and shut up. I've got another headache again tonight. I've been crying, I've been dying over. siamo tornati in diretta dopo questo gran pezzo di chi? Di Kiss, certo, di Pink. Ma perché oggi sto prendendo di nuovo il vizio di Andrea? Sai che l'altra volta tu non c'eri, ma sei entrato in me? Un po' vi ascoltate, sì, ho sentito. Andrea è entrato in Antonio. Esatto, allora, ma non da dietro. Vorrei prima dire una cosa. La vista l'abbiamo scoperto anche noi in diretta, è capitato proprio ad Antonio. Facebook, a quanto pare, ha un bug. È stato riscontrato questo bug. Non sappiamo se anche in Italia, ma per sicurezza vediamo la soluzione. Qualora come non sappiamo, è successo ad Antonio. No, è successo, ma non sappiamo effettivamente se le conversazioni sono italiano. Quelle private. I'm not Italian. Allora, ieri Facebook ha avuto un bug, ve ne ho parlato prima durante appunto la diretta. Un bug che potrebbe rendere pubbliche le vostre conversazioni private effettuate tra il 2007 ed il 2010. Diciamo che le mescola ai messaggi in le bacheca. Mescola, allora, vi comparirà un box nell'anno della vostra timeline in cui c'è scritto tutto quello che qualcuno vi ha scritto in bacheca. In mezzo a quelle scritte in bacheca pare ci siano anche dei messaggi privati inviati per chat di Facebook. Ora, se volete rimuoverli, è una cosa semplicissima: andate per ogni anno della vostra bacheca che va dal 2010, dal 2007 al 2010 o anche prima o dopo se volete, e cliccate sulla matitina che spunta, sì, a destra del box con scritto nascondi dal diario. E sì, vi siete eliminati il problema. Esatto. Avete eliminato il problema. Sì, è proprio lì dove c'è scritto, ad esempio, 500 persone hanno scritto sul tuo diario, esatto, sulla bacheca. Allora voi lì in mezzo correte il rischio di avere anche dei messaggi privati che si camuffano, si mimetizzano in mezzo agli altri. Allora, per levare il problema, appunto, cliccate sulla matitina nascondi dal diario. Abbiamo fatto un po' di radio informazione, diciamo, abbiamo salvato tanta gente che magari aveva corna in corso o appunto si faceva la fidanzata dell'amico e l'amico non lo sapeva. Abbiamo, diciamo, evitato un po' di omicidi. Allora, in scusate Italia. Un attimo, prima di passare al prossimo argomento, io voglio darvi l'aggiornamento in diretta, perché sul sito di Attivissimo, che abbiamo intervistato l'altra volta, si fa autochiamare un cacciatore di bufale, sì, e tra l'altro al suo blog è il Disinformatico, che si occupa proprio di questioni di anche di sicurezza web, pubblica una news delle 21:30 di ieri che dice: Facebook ha chiarito a TechCrunch la propria interpretazione delle segnalazioni degli utenti. Gran parte della confusione è dovuta al fatto che prima del 2009 non c'erano i mi piace e non c'erano i commenti sui post messi in bacheca. La gente comunicava scambiando post in bacheca invece di creare una conversazione. Me lo ricordo io. C'era guarda il bot e risposta nei commenti di un singolo post in bacheca. Facebook dice di aver controllato le segnalazioni e di non averne confermata neanche una. L'aggiornamento invece di oggi, quindi proprio di fresca, Punto Informatico e CNET, che sono due grandi network di informatica, parlano della faccenda. Le prove in redazione hanno tuttavia dimostrato che sarebbero semplicemente i messaggi degli amici effettivamente postati in bacheca ad essere mostrati, scrive Punto Informatico, segnalando una convocazione dei responsabili di Facebook da parte del governo francese, perché la Francia ha fatto causa a Facebook, ha aperto un'inchiesta. Sì, perché ci sono stati tanti utenti. Ginette invece spiega che i vecchi messaggi in bacheca sono stati radunati da Facebook in una casella etichettata Friends. Vi terremo aggiornati su questo argomento nelle prossime puntate, ma se volete degli aggiornamenti più veloci, perché noi ci sentiamo solamente una volta alla settimana, andate sul blog di attivissimo.blogspot.it e avrete tutti gli aggiornamenti su questo argomento. Il tema della privacy, insomma, almeno in Italia e soprattutto ormai anche in Gran Bretagna, visto che non si possono pubblicare le foto di Kate. A proposito di Kate, è molto sentito, quindi diciamo. A proposito di Kate, forse faceva meglio a restare nuda anche stavolta, perché ha fatto una gran figura di, diciamo, di merda, proprio per usare un eufemismo. Perché attento, che poi la regina denuncia anche noi. Assolutamente. Ma sai, qualcuno ha scritto una cosa, cioè: prima le chiappe di Pippa, poi il seno di Kate, abbiamo paura della risposta della regina. Va bene, andando avanti. Un genio ha scritto questa cosa. E andando avanti, quindi, questa signorina, la Kate, ha detto, cioè, ha combinato una bella cavolata. È sbarcata alle Solomon Islands con il marito, il principe William. E lo ridici dove è sbarcata? Per alle Solomon Islands. Oh, interessante. Yeah, very good. Comunque, yeah, vedi che io non sono italiano. Hai ragione. Ma per fortuna. Si sente. Io si sente. Io devo fare che è tipo secolo americano. Yeah, yeah. Swing it in Russia. Well, the news? Russia. The news is, I want to hear the news. Sì, Kate disse: ora mi metterò un vestito che richiama appunto le usanze del posto, delle Solomon Island. Peccato che invece si è messo un costume che è addirittura di tradizione delle Cook Island. Ha sbagliato totalmente. Ci sono rimasti gli abitanti abbastanza di sasso. Lei si è giustificata dicendo che sul letto della stanza aveva trovato tanti di quei regali delle altre arcipelaghi, delle isole vicine, che lei si era confusa e sera, questa è la prima cosa che ha trovato. A sto punto, meglio che Esise de Fora, direbbe la Roma. Sì. Almeno di sicuro non sbagliava. Che poi, non so se hai saputo che alla fine hanno pubblicato anche un nudo integrale frontale. Sì, perché io tra l'altro l'ho visto immediatamente. Ma io vorrei capire intanto perché una si vuole mettere con la patata all'aria a casa di un amico di famiglia. Cioè, non è che era a casa di sua madre, erano lei, il marito e la madre, però... Non lo so, guarda, ha deciso di fare così e pensava di non essere vista, perché in effetti gli alberi vicini non erano proprio vicini, erano lontani. Infatti lei aveva questo teleobiettivo immenso, questa fotografa, si dice così. Ma insomma, diciamo che l'argomento l'abbiamo già trattato. Poi altre notizie, insomma, come sapete Renata Polverini si è dimessa. Noi siamo... Si è spolverato. Sì. A quanto pare Radio Panorama se metti un ostriche che in un orecchio non senti il suono del mare, ma quello della regione Lazio. Assolutamente, questa è una cosa che ormai è risaputa. Come diceva ieri Anzi Crozza, tutti veramente molto dispiaciuti, compreso il tizio che vendeva le ostriche e il pesce fuori dalla regione Lazio, perché si era comprato apposta il fiorino più grande per gli ordini che aumentavano, e invece niente. Io vorrei fare invece un appello, visto che non è soltanto la regione Lazio, noi ce la prendiamo con la regione Lazio perché la prima sarà la punta dell'iceberg, ma la regione Sicilia, i consiglieri che in realtà si sentono fighi, visto che hanno l'autonomia, in Sicilia abbiamo lo statuto più vecchio della Costituzione, e si chiamano deputati alla regione Sicilia, prendono 12 milioni a gruppo consigliare. Ora io vorrei dire, non c'è paragone con le altre regioni, cioè Piemonte è secondo con 7 milioni, esatto. Quindi proprio non c'è paragone. Ora vorrei dire, cari deputati alla regione Sicilia, no, visto se che parte così togli il microfono, non so cosa stia per dire. Visto che ci sono le elezioni per la regione, per le regionali, e voi già i deputati si prendono un sacco di soldi e poi mi scrivete governare con onestà. Ma che onestà? Ma se siete veramente onesti, no? Diminuitevi tutti questi soldi, buttateli per strada, fate felici tutti, andatevene a casa e andatevene veramente. No, non ve lo posso dire dove dovete andare. Va ma bene, posso dirvi che invece ci risentiamo fra poco dopo la pubblicità. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Going nowhere fast, we've reached the climax. We're together, now we're undone. Won't commit, so we choose to run away. Feet off the ground, love is the blood that keeps raining down. Where are you now when I need you around? I'm on my knees, but it seems we're going nowhere fast. We've reached the climax. We're together, now we're undone. Won't commit, so we choose to run away. Do we Bene, siamo tornati dopo questa interruzione così un po'. Stiamo provando una cosa in regia, scusateci. Scusate, ogni tanto capitano anche a noi. Io ho pensato, non è successo nulla, è andato avanti. Cioè, non è che... Sì, infatti. Sì, no, insomma, ogni tanto succedono anche a noi questi problemi. È il bello della diretta. E infatti, quindi... sono le 19:41, oggi è il 26 settembre 2012. Io pensavo una cosa, cioè, Andrea. Dimmi una cosa, visto che noi andremo in replica di notte, sono le 19:41 adesso, ma questa notte, che ore saranno quando avrei detto sono le 19:41? L'1:41. Bravo, ce l'hai fatta, bravissimo. No? No, l'1:11. Bravissimo. Perché siccome andiamo in onda e mezza, mi ero confuso, Kaiser. L'1:11. Avevano sbagliato tutte e due. E al lune uno, niente, tutte e due. Bravo, no. Bravo, no. Sembravamo due rapper, Panzi Rap e Massa Rap. Hey. Stavo pensando, quando stanotte qualcuno accenderà la radio, magari i bambini che vanno a dormire un po' più tardi vogliono comunque addormentarsi, perché non creiamo un angolo dei bambini in cui possiamo magari, non lo so, chiedere un parere. Vediamo, abbiamo un bambino da intervistare. Bruma, puoi vedere se in strada c'è un bambino da fermare? Se in strada c'è un bambino da fermare? Sì, magari sta passando qui che va a giocare col pallone. Bimbo! Ecco, esatto, Bruma sta chiamando il bimbo. Bimbo! Ecco, ecco, si avvicina. Vediamo. Ecco, si sta avvicinando. Ciao piccolo, come ti chiami? Bimbo. Io lo so che è difficile. Cioè, non ho capito, scusa. Bimbo Babbo. Ah, ecco, non, ho pensato Bimbo Babbo, invece Babbo Babbo. Vabbè, beh. Ma non era diversa poco prima. Senti, quanti anni hai? Ah, ti chiami Michele. Ho capito, mi chiamo Michele. Senti, ma la mamma lo sa che sei qua in giro in mezzo alle macchine, è pericoloso. Spero di non aver capito quello che ho detto. Quando, cioè, quando è detto, bello perché c'è il dubbio. Quando ho detto mamma sembrava essere un mestiere, il più antico del mondo. Senti, ma parliamo di musica visto che siamo in radio. A te quale canzone piace ascoltare? Non so, la sigla di Dragon Ball? Non ti piace, ha detto non mi piace, credo di averlo capito, giusto? Non c'è arrabbiato. È un po' un bimbo isterico. Oppure ti piace, non so, una canzone di un cartone animato Disney? No, niente, credo che sia proprio in sofferenza. Ma insomma, puoi dirmi, bimbo, una canzone almeno che ti piace? Oppa Gangnam Style. Benissimo. Eravamo pronti e... Bobby. Ci è rimasto male, perché lui pensava che partisse. No, bimbo, ora bimbo mettiamo. Allora bimbo, dai, mettila, scusami. No, adesso non posso. Adesso metterlo. Non puoi. Vabbè, no, perché vedi, quando compare quella finestra vuol dire che qualcosa è andato a male. È andato va a bene male. Bimbo, noi ti ringraziamo, magari ti chiamiamo quando riusciamo a mettere la canzone, va bene? Va bene. Grazie. Adesso direi che prima facciamo entrare il prossimo ospite oppure ci ascoltiamo un pezzo prima. No, ci ascoltiamo un pezzo. Ci ascoltiamo Gianna di Rino Gaetano per voi su Radio Panorama. È bella, è bella, ascolta, ascolta. Ed eccoci tornati in diretta mentre Andrea mi diceva eccoci tornati in diretta. Eccoci tornati in diretta, no, perché volevo avvertirlo che proprio è da noi che è tornato finalmente Scopelliti, il nostro grandissimo. Ma lo presenti così, scusa, sì, io sto sì, ancora sì, lo presento, ma poi raccontiamo insomma chi è il nostro ospite. Ormai chi ci ascolta lo conosce, lui era un ex medico nutrizionista, insomma, che è stato cacciato dall'ordine dei medici. Sì, intanto vado a chiamarlo. Vai a chiamarlo, vai. È stato cacciato dall'ordine dei medici perché ha ucciso una persona involontariamente, no, con una ricetta di 'nduja calabrese, e quindi adesso gira le radio d'Italia per lavare l'onta dell'uccisione. Ovviamente noi ce lo becchiamo ogni mercoledì perché lui ci tiene a darvi le ricette di cucina calabrese tipica, per dimostrare insomma che la cucina calabrese non fa male. Noi l'abbiamo qui oggi con noi, Antonio è andato a chiamarlo, io pregherei di farlo entrare. Mi raccomando ai nostri ascoltatori, carta e penna, soprattutto a quelli notturni, e provate a scrivere, ragazzi. Che vi sì, posso dire? Pere pere pere, sì, e te, e pure sempre nave, sempre Buonasera, Tonico. Ti la sento molto allegro. Sì, sono veramente felice perché veramente mi mancava. Mi hanno detto che era morto lei la scorsa. No, non sono morto. In realtà è vivo. Ho detto, a cui c'è un'ora io? Gli schiaffettoni. No, ci sono gli schiaffettoni. Sì, invece ci stanno. No, non mi deve dare. Come stai, Brum? Bene, bene. Ormai mi insegnavi 9 su YouTube. Bravo, sì, l'altra volta eravamo solo io e lei. Sì, eravamo solo io e lei. Perché il bello stronzo se ne io, che è Antonio, come si chiama. Ma anzi, ora mi viene a pigliare se ne io fuori a parlare con questo. Senta, caro Tony Scopelliti, ma oggi che ricetta ci porta? Oggi le porti i percetelli con pomodoro ricotta. Cosa? I percetelli con pomodoro ricotta. No, io non ho capito. I percetelli con pomodoro e ricotta. Percetelli con pomodoro e ricotta. Non dica, perché i nostri ascoltatori devono prendere carta e penna. Prendete carta e penna. Carta e penna. Esatto, e se non funziona la penna, fatemi una tracheotomia. Perfetto. Allora, mi dica gli ingredienti di questa ricetta. Allora, ci vogliono almeno 4 foglie tipo modello palma di basilico. Sì. Belle grandi, che si trovano, sì, insomma. Per quante persone è questa ricetta? Questa ricetta è per 4 persone. 4 persone, una foglia a testa. Esatto, no? 5 kg di polpa di pomodoro fresco. E questo, insomma. Sì. 5 kg diviso 4. Quanto fa? 1,250 grammi a testa. Lei è eccezionale. Poi ci vogliono 400 grammi di olio d'extravergine d'oliva. E non vale la pena neanche di dividerlo. Sì, non vale la pena di dividerlo. Che poi, dico, se ci pensi. Lei, ormai l'olio è una delle poche cose rimaste extravergine in questo mondo. È vero, è vero. Allora, poi che cosa ci vuole? Sale e pepe, quanto ne la volete? La sua saggezza, guardi, è popolare, grande, è popolare. L'uomo calabrese mi è popolare. Poi ci vuole sale e pepe. Quanto? Almeno 1 kg, 1 kg. 2 kg di sale. 2 kg di sale, 1 kg di pepe. Se siete ipertesi, 1 kg di sale e 2 di pepe, o contrario. Cioè, ovviamente. Perfetto, se no morite come a chi non ha ammazzato. No, brutti ricordi. Non ricordiamo. Poi ci vuole una bella cipollata russa di Giopea che andava a fare chiangere quando era 1 km. Ma manca qualcosa in questa sì. Ricetta? Ah, un stick. No, quello non mai. La scorsa settimana c'era il re. No, non ha detto un ingrediente principale. Ah, certo, ci vogliono 3 kg di ricotta. Ah, dico. Sì, la ricotta che da cucaglio, che da bella lorda, che c'è. Su un cerno almeno c'è sputazzate per lì, non è buono. 3 kg di ricotta per 4 persone. È un po' difficile. Diciamo che c'è una cosa di mezzo da fare, che la calcolatrice noi non la calcoliamo. Non la calcoliamo. Poi ci vanno 200 kg di perciatelle. 200 kg. No, sbagliai. Pure io in batte resta scioccato. 2 kg di perciatelle. Ah, 2 kg. Mi parevano un po' assai. Lei scrive queste ricette e poi non neanche le sa leggere. Esatto, ma infatti urlai pure io, non capivo. Ho detto al lato. Comunque, chili di percetelle. Sì, 5 kg di parmigiano grattugiato. 5 kg, quindi più parmigiano meno percetelle. Sì, sembra uno slogan, sembra... Si potrebbe lanciare in politica. Va bene, allora abbiamo adesso il procedimento. Pronti con la penna? Via. Tritate cipolla e fate la pastina a fuoco dolce con l'olio. Poi unite la polpere con pomodoro passata, salate e pepate e fate cuocere. E il resto fate quattro mesi di aria di villo. Ma come? Ma... Perché adesso c'è una sorpresa che nessuno si aspetterà mai. Io ho portato con me mio nipote Michele, il bimbo che sentevate prima. Ah, era suo nipote Michele. Sì, anzi, aspetti che lo chiamo. Michele, vieni. Vieni. È tornato Michele. Senti Michele, noi poco fa non abbiamo capito bene, ma quella canzone che ti piace assai? Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Yeah, 여자 그런 감각적인 여자 나는 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Un uomo fa sesso col cassonetto e invita il passante a tacere. È una notizia vera, c'era un uomo che è stato trovato da questo passante attaccato appunto al cassonetto, che pensava stesse male, si avvicina per aiutarlo e vede che aveva i genitali dilaniati a poco, ma, e lui gli fa segno zitto, non parlare. Tu magari, non parlare. Cioè non era magari in Sicilia, però la scena è più o meno questa. Voi immaginate questo uomo trovato a fare sesso col cassonetto che chiede alla persona che passa di non parlare. E siamo tornati qui in diretta con questa bella notizia, Radio Panorama, solo 19:53, o se siete ascoltatori notturni. Notturni. Sono le mezzanotte. No, luna e mezza. Luna e mezza? Eh sì. Più o meno. No, è luna e mezza. No, è luna e 24. Luna e 24. La precisione. La precisione. Abbiamo ascoltato appunto Gangnam Style, che come diciamo prima sarà, lo ricordiamo ancora, diciamo il protagonista vero, questo pezzo, del flash mob che si terrà a Palermo il 6 ottobre, che se non erro viene di sabato, alle 15:30 del pomeriggio in piazza Teatro Massimo. Non è una battuta, cercate trovate tutto quanto su Facebook, tutte le notizie dell'evento, e insomma vi invitiamo a partecipare in tanti. Noi ci saremo, possiamo dire, io e Brumma con sicurezza ci saremo. Anch'io ci sarò. Anche Andrea ci sarà, tutti noi di Radio Panorama con l'Onda in Onda ci saremo. E adesso, visto che noi facciamo radio e siamo anche persone serie, è il momento di dare il benvenuto a Adriano. Ecco, io non sapevo il nome, stavo per dire il nome del gruppo. Che l'ho scritto e gliel'ho portato via. Esatto, allora abbiamo il piacere di avere ospite in diretta, diamo il benvenuto ad Adriano dei Brahman. Dimmi se è giusto. Ciao, se è corretto il nome, Brahman, ho detto bene. Correttissimo. Bene, ma tu mi sembra che hai un accento di questa zona, o sbaglio? Io sono di Palermo. Minchia, l'ho sentito che eri palermitano con noi. Compare, allora buonasera ancora con più calore. Baciamo le mani. Assolutamente. Scusa, è passato Nino Rota con la musica del Padrino. Ciao carissimo, come stai? Domanda di rito. Benissimo. Perfetto. Siamo a palla, siamo contentissimi per l'uscita del disco. Bene, queste sono belle notizie, perché comunque in un periodo in cui tutto ci si dedica a tutto fuorché purtroppo alla musica, anche perché ci sono altre necessità impellenti nella nostra nazione, sapere che c'è qualcuno contento perché finalmente ha raggiunto il traguardo di far uscire l'opera, quello che è uscito dal proprio estro inventivo, è bellissimo sentire delle persone felici di tutto questo. Assolutamente, poi la musica è sofferenza ma anche tanta gioia. Eh sì, per fortuna sì, per fortuna sì. Senti, io leggo che voi cinque, siete in cinque, giusto? Esatto, okay. Siamo in cinque. Sì. Voce, chitarra, batteria, basso, quindi formazione classica. Sì. E poi abbiamo un ragazzo che è un polistrumentista, che è Vincenzo, che suona i piatti, i synth, è un po' di roba varia. Ah, perfetto, avete anche il polistrumentista, bene, che male non fa, cioè tipo una sera vi dimenticate tutti gli strumenti, lui prende un citofono e ve lo suona sbattendovelo sulla testa, anche quella. E anche quello più stressato. Esatto, beh, immagino, ovviamente. E voi siete di radici siciliane e pugliesi, se non sbaglio, giusto? Sì, in realtà siamo due ragazzi di Palermo, sì? Io voce chitarra e il batterista che è palermitano. L'altro ragazzo si chiama il palermitano, così lo salutiamo? Francesco Provenzano. Allora baciamo, cioè molto le mani, non una volta. Esatto. E poi gli altri ragazzi, dicevi, della Puglia? Poi c'è un ragazzo che è di Torre Maggiore. Sì. Poi altri due ragazzi che sono di Milano. Però diciamo che Milano vi ha unito, perché vi trovate lì per motivi diversi, quindi insomma, esatto, è stato il trade union, diciamo così. Bravissimo. Bene. E diciamo che le prime esperienze grosse, so che avete suonato al Team Tour, siete arrivati al secondo posto nel concorso della Proel Distribuzioni e alle finali regionali dell'Arezzo Wave. Diciamo che sono forse queste le prime esperienze importanti. Sì, finale di Sanremo Rock, sì. Leggo anche premio Città di Recanati e le finali nazionali di Rock Targato Italia. E insomma, avete fatto. Avete fatto. Sì, sono preparato, ho studiato, ora poi aspetto il voto a fine intervista. Dico, avete fatto già quindi tanta ciccia, tanta roba, diciamo, sul cammino. Quanti anni avete in media? Ma siamo tutti dei vecchi. Dei vecchi, quindi siamo dai sul 30/40 anni. Ah, quindi proprio decrepiti e voi, ma smetta, ah, non... Sì. Però sì, effettivamente il gruppo nasce tra l'altro a Palermo già diversi anni fa, 10 anni fa, ha subito diverse formazioni, diversi cambiamenti e adesso ha trovato, diciamo, la sua maturità qui a Milano con il disco. Abbiamo fatto diversi EP, diversi lavori autoprodotti come la gavetta classica richiede, penso che sia anche la cosa più giusta, cioè, se non tanto, esatto, devi rodare, è come una macchina, devi fare migliaia di chilometri prima di sentirla tua e poter dire che ha girato un bel po'. Intanto in sottofondo non so se tu senti che stiamo ascoltando il vostro pezzo Mercoledì, il singolo Mercoledì. Okay, Mercoledì. Sì. Ah, io volevo sapere invece qualche informazione più sull'album, parlaci proprio di questo nuovo album. Sì. Allora, questo nuovo album si chiama Anche il più ottimista, esce con l'etichetta Fiors di Paolo Messere, contiene 11 brani ed è un album che noi definiamo temporale perché si rivolge proprio ai tenni, che sono degli eterni adolescenti, e la caratteristica di questo album è proprio quella di guardare al passato proprio per l'ansia del futuro, che è proprio tipica ormai del trentenne precario in un'Italia devastata dalla crisi, dai lavori a progetto a tempo determinato, dall'interstessa del futuro. E quindi anche il titolo, Anche il più sinistro, in realtà è un titolo tronco, proprio perché è una frase tronca che però con molta ironia ti lascia anche un po' di amare in bocca. Eh sì, perché sembrerebbe voler dire Anche il più ottimista purtroppo non riesce sempre a vedere rosa in questo mondo un po' così. Sì. Senti, ma io ho apprezzato, insomma, che avete avuto le palle di rifare un pezzo di André, che è la ballata dell'amore cieco. Come mai proprio la scelta di questo pezzo da inserire nell'album? Tra l'altro lo sentiremo subito dopo questa intervista, perché a me è piaciuto molto come è riarrangiato. Ah, ti ringrazio. Allora, noi lo definiamo l'unico pezzo romantico dell'album. In realtà è, al di là del fatto che De André è intoccabile, quindi siamo stati effettivamente un po', abbiamo fatto una scelta un po' pericolosa. Ma vanno anche fatte queste scelte, sì. Bisogna anche essere oltraggiosi, per rischiare. Guarda, se hanno rifatto Nothing Else Matters, se hanno rifatta Masini, dico chiunque. Vabbè, ma anche se hanno preso la canzone di Battiato e gira tutto intorno alla stanza, lì non si chiama, l'hanno rifatta come discoteca. Sì. No, però De André effettivamente dovrebbe essere intoccabile. Però abbiamo deciso di farlo proprio per il significato della canzone, che è un significato che si riposa molto con il tema del disco, perché in realtà è una morale un po' capovolta, perché non si capisce bene chi sono i vinti e chi sono i vincitori. Proprio perché, vabbè, chi conosce bene la canzone sa che alla fine l'amato ama talmente tanto che è pronto ad ammazzarsi, sì, a morire, e poi alla fine la morale è che in realtà è lui il vincitore. Paradossalmente è proprio lui il vincitore. È lui il vincitore, perché lei rimane lì da sola e pazza senza aver saputo mai cos'è l'amore. Sì. Esattamente, quindi probabilmente in un disco che ha un disorientamento sul futuro è un velato pessimismo, in realtà però ti lascia sospeso con questo disorientamento, proprio si inquadra sul non capire realmente chi sono i vinti e chi sono i vincitori. E poi non possiamo, bravissimo a descriverlo in questo pezzo. Sì, in diversi album, in tantissimi pezzi meravigliosi. E non possiamo non citare, anche parlando del vostro disco, appunto, Anche il più ottimista, non possiamo non citare il pezzo che contiene una preziosissima partecipazione, che è quella di Manuel Agnelli. Tra l'altro è un brano sull'antinucleare e la pagina dell'Onda in Onda, del nostro programma, su Facebook, come immagine copertina, vede me e il mio collega qui accanto, che ti ha appena parlato, Andrea, vestiti in tenuta da, diciamo, lavoratori di una fabbrica di nucleare, quando c'era il referendum proprio sul nucleare. Abbiamo colonizzato la radio per fare un'ottima campagna di sensibilizzazione per quel referendum, e quindi dovevamo citare anche questo pezzo. Tra l'altro Manuel Agnelli, insomma, tanto di cappello. Sì, infatti c'è da dire che noi

shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, stop, percolate. Anything you want, forgot it, oscillate it. If I don't take pity, want to see you get live. When the rhythm hit a ride, I'm a lyrics up about electric city. Y'all nobody can tell you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond ignite my flame, girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on, girl. It's all good, just turn me on. Yo, shake that thing, miss. Can I shake that thing, yo? Annabella, shake that thing, miss. Donna, Donna, yo, miss Jody and the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Yo, Anna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, miss. Can I, Dutty, yo? Yeah, hey, yo. From a girl's hiding. Sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my band ignite my flame, till I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. Ed eccoci tornati in diretta, sempre qui all'Onda in Onda, dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Volevo arrivare proprio in alto come timbro. Bravo. Ciao. Senti, durante la pubblicità ci hanno avvertito, hanno chiamato immediatamente dal collo. Abbiamo visto qui le lucine del telefono che si accendeva. Era appunto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ci chiede urgentemente la linea. Quindi tutti i radioascoltatori, mi raccomando, ascoltate, perché il presidente Napolitano deve assolutamente dirci qualcosa, noi non sappiamo. Vediamo se riusciamo ad averlo in collegamento. So che vediamo. Regimi, date conferma che sì, dovrebbe essere in linea. Sì. Pronto? Sì, lo sento. Oh. Pronto, pronto. Ma il presidente non risponde, pronto, risponde pronto, pronto. Pronto, presidente. Sa. Presidente, il microfono è già testato, lei è al telefono. Sì, ma devo fare ora il test napoletano. Ba, ba. Ma il presidente? Ba, ba. Questa, presidente. Questa è di Fino, guardi. Ba, non mi nomini Gianfranco. No, ma era di Fino. Ah, io ho sentito Fini. Perché che ha problemi con Gianfranco Fini, il volevo presidente della Camera? Proprio questo. Io ho chiamato. Voleva parlare del problema. Per parlarvi del problema Fini. Mi dica, qual è Fini il problema? Ha un conflitto di interessi. Fa i tortellini e ho politico. No, non è la stessa persona, come presidente. A me hanno detto sì. No, presidente. Come Gerry Scotti, che c'ha un altro conflitto di interessi. No. Fa TV, passaparola. Però mi sa che fa più passaparola di comprare il riso. Infatti lui è pure presente nella pubblicità. No, presidente, guardi, non c'entra niente Fini con... Dice che l'hanno sfruttato solo perché tiene lo stesso cognome. È possibile. Io pensavo che proprio fosse suo. No, guarda. Era un intrigo di pasta e riso. Un intrigo di pasta. Senta, ma scusi, lei ha chiamato per questo problema, in realtà lei ha chiamato ovviamente per parlarci del problema dello scandalo della polverina. Qual è? Allora, cosa vuole dirci? Ho sentito, no, che lei ha fatto questa conferenza stampa in cui ha detto che la corruzione è dilagante, non si può più vivere con questa corruzione, ma il Parlamento approverà questo disegno di legge anticorruzione. So che ci sono forti ostruzionismi da parte del PDL. Ora vorrei dire, caro presidente, lei, il presidente di tutti gli italiani, ma quando un partito, no, grosso, che è stato maggioranza, presidente sì. Presidente, no. Stavo mi concentro meglio, occhi chiusi, no, dico. Presidente, siete. Quando è il metodo italiano, un partito, questo è il metodo italiano. Quando un partito, no, è così grosso e si pone contro un decreto legge, un disegno di legge anticorruzione, non ci fa già una pessima figura, presidente? Lei prenda una posizione, dica qualcosa. Giusto. Come, basta. Io dico che quando ero piccolo, quindi nel lontano 1890. Addirittura, presidente? No, 92. Ah, va bene, certo. Non ero bravo in disegno. Che, ah, no, disegno di legge. Appunto, presidente. Cioè, se non sa può disegnare, no piscirill, manco con la stanghetta sale. Ma dice, tanto non le fa lei le leggi. Cosa dovevo fare deve con solo la legge? Provarle. Io non so disegnare. Presidente, lei sì. Deve soltanto promulgare. Ma perché Brumma parla all'altezza di Brunetta? Non sento niente. Perché si mi ero abbassato. Ah, ecco. Ah, beh, giusto, c'è il presidente davanti, cioè, mi dica. Lei è più in alto di tutti. No, dicevo che lei deve soltanto promulgare la legge, però spinga, no? Dia un indirizzo alle camere, dia spinga, una spinta propulsiva. Spinga. Guardate, se parlate ancora vi spingo a tutte e due e non credo che vi farete tanto bene. No, presidente, non vorremmo mai essere esiliati, ma ci spieghi, no? Qual è il monito che lei vuole fare? Lo faccio un appello a tutti i partiti, no? Qui, dai nostri microfoni, faccio un appello a tutti i partiti per cercare di porre fine a questa corruzione. Posso farlo? Partiti, sì. Partiti vin. E basta, questo è il suo appello. Se ne annaire. Tutti i partiti. Tutti. Ma come si fa allora? Governo io. No, ma e Clio come alla difesa. Ma Clio alla difesa? Sì, perché chiunque vuole entrare a casa mia per dire non ci stiamo, Clio lo respingerà con un bel colpo al portone. Ma come? Ma questo non ha senso. C'è un telefono che squilla, presidente, sì, il suo credo, al colle. Credo sia il mio. Presidente, ma perché sta suonando il suo telefono al colle? Io non ho la più pallida idea di ma insomma, poi risponderà più avanti, vedremo cosa succede. Hanno chiuso, non so. Hanno chiuso, presidente. Non era importante. Era Fini? Ah, sì. Sì, come in sì? Sì. E lei non ha risposto. In effetti c'era scritto Gianfi. Ma tu che ne sai? Era qua il telefono, ha lasciato in regia. No, scusi, come fa a essere qua sta succedendo qualcosa di presidente, lei quando è entrato ha lasciato il telefono in regia. Ma io sto al colle, io non sono entrato. No, ma lei è entrato l'altra volta. Vediamo se l'altra volta. Vediamo se è in grado di uscirsene da questa matassa. Sì. In effetti se ne è uscito alla grande. Presidente, a quanto pare ha dimenticato il telefono qui. Sì, era la Polverini. Non era Fini? No, ma era ha detto il nostro regista che era tutti quelli che finiscono in Ini mi chiamano. Franceschini, Polverini. Anche Franceschini. Fini. Addirittura De Martini. De Martini, il cardinale è morto. No, quello è Maria Martini. Ah già, non ricordavo. Scusi, ce la perdono. Scusi. Scusi. Mi ha chiamato la Polverini e sa cosa mi ha detto? Mi dimetto. No, ho messo in viva voce quando ha detto questa cazzata enorme. Fa: caro Giorgio, io sono Renata. Sì, immagino che si no, sia presentato. Ah, basta. Punto, era una battuta, perché dopo che si è dimessa dice che lei è Renata. Non so. Ah, che battutona. Infatti lei siamo rimasti tutti trasecolati. No, riso ce l'ha Scotti. No, la saluto. Ma presidente, viva l'Italia, viva la Costituzione, viva Gianni Celeste, arrivederci. Ma è una telefonata senza senso. Salutiamo il presidente, insomma, ha fatto il suo appello, vedremo cosa... Ah, scusate. Presidente, ma non se n'era andato. Ma dimenticavo. Non ha chiuso lei. Sì, volevo dire che ogni tanto a me piace tirare. Cosa? Che tira? Presidente, che tira? Ora ascolterete il pezzo e capirete cosa è. Ma che c'è? Ma che cosa tira? Ma cosa tira? Come il postino della camera. Non dica boiate, che cosa tira? Il postino della camera è una brava persona. Ma come è una brava persona? Ma lui spacciava cocaina. Non è vero. Era associato a un albanese che spacciava cocaina. Ah, quindi lei lo difende. Stato da solo, io difendo assolutamente quest'uomo. Ma presidente, veramente io sono allibito. Presidente, noi siamo proprio contro questo tipo di, vabbè, di droghe, soprattutto. Io invece dico viva la ganja, ascoltiamoci. Ma come presidente? Ascoltiamoci a proposito un pezzo di Bob Marley e The Wailers, Redemption Song. Che detto in napoletano è tutta un'altra cosa. Grazie presidente. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E c'è con noi Marco! Ciao Marco! Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma tra l'altro c'è da cogliere il passaggio non indifferente proprio a livello culturale e intellettivo da Redemption Song a Marco che ci redimerà con i suoi film brutti. Quindi voglio dire, cioè, è stato un gran salto, devo dire. Torna tutto, insomma. Torna tutto. Da Bob Marley a Marco. Allora, come stai, carissimo? Io benissimo, spero che anche voi siate stati bene. A parte un caldo becco, ci sono tipo 36.000 gradi all'ombra, diciamo che tutto va bene. Perfetto. Allora, Marco, di che film ci parli oggi? Quale bruttezza dobbiamo vedere questa settimana? A cosa ci dobbiamo sottoporre stavolta? Allora, questa volta c'è un vero capolavoro che viene dalla Turchia. Dovete sapere già che i nostri amici turchi sono specializzati nei remake dei film di successo hollywoodiani. Questa sera parleremo di... Ma chi? Quelli dell'Asylum? No, non proprio. Cioè, quelli dell'Asylum fanno i mockbuster, cioè fanno, diciamo delle edizioni, diciamo, ridotte dei film, diciamo, dei blockbuster. Come Titanic 2. Loro invece proprio li rifanno, diciamo, perché, cioè, proprio per il gusto di rifarli, cioè, fanno le versioni turche proprio dei film di successo. Sì. Quindi non si tratta, diciamo, di un po' una presa in giro come fa l'Asylum, ma proprio... di una edizione turca del film in questione, insomma. E questa settimana che film ci propone? Beh, l'equivalente dei Guerre Stellari. Oh, si chiama Dunyayn Kurtarayn Adam, in lingua, spero di aver pronunciato bene. Ed è un film veramente epocale che, diciamo, prende le mosse proprio dal film di Star Wars, nel senso che ne ruba alcune sequenze all'inizio. Ah, proprio le rube, cioè sono proprio prese da Star Wars. Esattamente, ruba alcune sequenze, poi praticamente, diciamo, con una specie di stratagemma, i due protagonisti del film, di cui uno è il grandissimo Cüneyt Arkın, star assoluta del cinema turco, e l'altro è il sosia turco di Toto Cutugno, praticamente... questi due piloti dei ribelli atterrano su un pianeta dove praticamente succede di tutto. I due devono scontrarsi con un uomo barbuto che è un alieno che vuole conquistare la Terra, non si sa come, sembra che debba distruggere uno scudo e per questo ha bisogno del cervello di un uomo. praticamente, no, una cosa totalmente delirante. Praticamente i due devono poi sottoporsi ad un intensissimo allenamento per sconfiggere i mostri, che altro non sono che robot di cartone oppure i classici pupazzoni in stile giapponese, quindi sì. C'è l'omino dentro il pupazzone peloso che si fa prendere a schiaffi dai due, i due che saltano continuamente, zompano da una parte all'altra dello schermo e affrontano i vari nemici con delle scazzottate in stile Bud Spencer e con la colonna sonora di Indiana Jones. Questa è una cosa veramente incredibile. Cioè, aspetta, hanno pagato realmente per avere la colonna sonora di Indiana Jones? No, l'hanno semplicemente messa. È tutto arraffata a palla, esattamente, diciamo. Non guardano in faccia a nessuno. Quindi hanno preso la colonna sonora di Indiana Jones, che comunque è prodotto sempre da Lucas, e scimmiottando Star Wars, che è sempre di Lucas. Esattamente, quindi un pasticcio veramente geniale. Dei devoti di Lucas in un modo geniale, quindi abbiamo capito. Assolutamente. Il film poi assume anche delle caratteristiche lisergiche, perché ci sono delle sequenze stranissime in cui tutto si colora di verde, di rosso, e c'è questo alieno cattivo che parla, sembra farli al contrario. Ma guarda, ci sono delle cose veramente allucinanti e poi, vabbè, alla fine il nostro eroe ce la fa. Praticamente trova una spada, tipo la spada nella roccia, che è una spada con un cervello sotto, è una spada di cartone ovviamente, con cui lui riesce poi a prodursi un paio di guanti con cui, diciamo, sconfigge definitivamente il cattivone e tutti i vari pupazzoni in una rissa reale finale che è praticamente da Oscar. E poi riprende la sua astronave e si riunisce, diciamo, ai ribelli di Star Wars, riprendendo appunto ancora alcune scene di assalto alla Morte Nera, che è una cosa fantastica, veramente. Rubate anche l'assalto alla Morte Nera. Assolutamente. La battaglia di Yavin. Senti, qual è il momento della giornata in cui suggerisci di autopunirci con questo film? Magari dopo pranzo o nell'aperitivo, mentre sorseggiamo uno spizzo? Guarda, questo è uno dei rari film che funziona a tutte le ore, quindi lo potete vedere anche dopo cena, non rischiate di addormentarvi, perché è veramente un film rutilante, pieno di emozioni, di colpi di scena a suo modo, sì. Succede veramente di tutto, ragazzi, è una cosa veramente da non perdere. Quindi per chi ci sta ascoltando in replica alle 2 di notte, diremo che è il momento giusto, finita la replica, sì. Possono andare a vedersi questo. Possono tranquillamente mettersi alla visione subito dopo la replica. Ridiamo il titolo di questo film? Allora, suggerirei di cercarlo come Turkish Star Wars. Perché il titolo, diciamo, è un po' troppo difficile. Però tu ridi, tu dillo. Tanto noi diamo le ricette di un particolare, diciamo, calabrese, okay, che parla strano, quindi il vediamo. Il titolo in turco è Dunyai Kurtaran Adam, del maestro Setin Inank. Il grande maestro, grande, l'unico. 1982, perfetto. Quindi un film di appena 30 anni fa. Cercato come Turkish. Lo puoi dire Turkish? No, cioè, tu non riesci Turkish, a dire Turkish, no, lui dice Arakapazza Kra, e tu non riesci a dire niente. Turkish Star Wars, vedremo cosa vi esce fuori. Va bene, Marco, ti salutiamo. Noi siamo in chiusura. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti quelli che ci hanno, ragazzi, sempre un piacere. Ascoltato, ci ascoltiamo nel prossimo pezzo. E poi ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre agli studi di Radio Panorama, sempre. Ma perché stai salutando adesso, se abbiamo altri 5 minuti? Perché ci ascoltiamo il pezzo. Ci ascoltiamo Just Jack con Stars in the Eyes. They'll be making sure you stay amused, they'll fill you up with drugs and booze, maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means, by the end of the night you'll be stifling your screams. Since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why do you wanna go and put stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes? So why do you wanna go and put stars in their eyes? Now why do you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall, and now you're playing a shopping mall.